Ciao, però ha una piattaforma molto complessa, ma diciamo che oggi in questa assemblea abbiamo voluto focalizzare molto su diritti sindacali mancati, diciamo, cioè il fatto che molti sindacati che non sono firmatari di contratti che svendono di fatto i diritti dei lavoratori sono in qualche modo o tenuti fuori dalle trattative oppure vessati e licenziati nel momento in cui fanno sindacato all'interno del posto di lavoro. Quindi diciamo che il filo conduttore sarà un po' questo, e per questo abbiamo invitato Gaël a raccontarci quello che sta succedendo in Francia. Di fatto, insomma, resta complicato fare sindacato reale e rivendicare i diritti dei lavoratori. Di fatto, insomma, i sindacati che attualmente sono, diciamo, riconosciuti, diciamo, co-gestiscono l'impresa più che fare diritti dei lavoratori. E l'assemblea di questa sera, quindi, comunque avrà come scopo un dibattito e un incontro che ovviamente va verso lo sciopero difficilissimo del 26 ottobre. Il filo conduttore resta uno dei punti del nostro, che sarà nella piattaforma del nostro sciopero, che è le libertà sindacali, quindi la possibilità di lavorare sindacalmente all'interno dei posti di lavoro perché eletto dai propri colleghi o dai lavoratori e non perché ti dà il permesso, diciamo, il datore di lavoro, come accade adesso di fatto. Diciamo che gli ospiti, oltre a Gaël, che ci porterà un notevole contributo dalla Francia, dalla sua situazione, c'è Ayashi, che è un delegato licenziato invece dall'SDA qui a Bologna, dell'SDB, licenziato sempre per motivi politici, quindi sindacali, per impedirgli l'attività sindacale nel momento in cui il magazzino dell'SDA sta per avviare una ristrutturazione che conterrà praticamente il licenziamento di metà o quasi o la totalità degli attuali lavoratori. Inoltre avremo Antonio Ferrari, che è il segretario dell'FLMU CUB, che è l'unico sindacato che all'interno dell'ILVA si è opposto a quell'accordo che è stato fatto, che tutti conoscono, e che chiede la riconversione della struttura. Un sindacato anche questo che, per non aver firmato l'accordo del 10 gennaio, cioè l'accordo che prevede con i datori di lavoro degli accordi in cui non si può scioperare, per non aver firmato quell'accordo è un sindacato tenuto fuori e ovviamente diciamo che si ritorna di nuovo lì. Sarà affrontato molto il discorso dell'accordo dell'ILVA perché comunque lo riteniamo molto importante ed esemplare rispetto al fatto che dopo 50 anni, dopo tante conquiste dei lavoratori, si è ritornata a dividere la salute e la sicurezza da, diciamo, il ricatto economico. Purtroppo è una cosa che noi cercheremo di contrastare e come indicazione infatti diamo il 26 di ottobre manifestazione a Taranto.